denari. Era Valeria, è arrabbiata con me perché dice che mi sono dimenticato una cosa, non mi ricordo neanche più che cosa. Hai ancora la forza di arrabbiarsi? Io ormai con te non me la prendo neanche più quando ti dimentichi le cose. Con te non mi sono mai dimenticato di niente. Perché non ti ricordi neanche le cose che non ti ricordi. Ma smettila che non mi dimentico di niente. Ma se il giorno del mio compleanno ti sei persino dimenticato di farmi gli auguri. Ma cosa me ne frega di queste cose piccole? Io mi ricordo le cose importanti. Tipo? Come la mappa degli autovelox, le canzoni dei Pooh. Beh, è facile ricordarti solo le cose che interessano a te. Ma non credo che prima tua moglie si sia arrabbiata perché ti eri dimenticato che so la quinta parola di piccola Kate. Ma non di certo, anche perché la so. Ma questa è una cosa che riguarda sempre te. Devi imparare anche le cose che riguardano gli altri. Dimenticanze, disattenzione, distrazioni sono sempre in agguato. Vi è mai capitato di andare in una stanza e non ricordare cosa siete andati a fare? A me stamattina già due volte. Oppure di preparare la macchinetta del caffè e non aver messo l'acqua, è quasi una mia specialità. O di perdere il filo del discorso se non ci fosse la scaletta. Oppure di non ricordare se avete chiuso la porta chiave. Beh, un classico. Se è capitato anche a voi, sappiate che siamo in buona compagnia, perché questi acciacchi dell'attenzione capitano spesso alla maggior parte delle persone e di tutte le età. Un giorno si dice che Isaac Newton volesse calcolare quanto tempo fosse necessario per cuocere un uovo. Dopo un minuto si è accorto di avere in mano l'uovo e l'orologio era nel tegame. Per non parlare di Albert Einstein, che sembra si recò ad una conferenza in giacca e papillon. Tutto bene, no? Direte voi, perché era elegante. Peccato che avesse dimenticato di mettere i pantaloni. Quindi forza e coraggio, e l'argomento dell'attenzione è proprio il tema della puntata di oggi. Questa funzione è alla base della maggior parte dei nostri processi mentali, io aggiungo ahimè, perché l'attenzione serve un po' a tutto, no? A memorizzare, a programmare i nostri impegni, a risolvere i problemi. Allora oggi alleneremo questa importante capacità utilizzando l'innovativo metodo 5A presentato ieri dal professor Iannoccari nella prima puntata. Infatti ci siamo dedicati alla prima A, l'attivazione mentale, mentre oggi parleremo di attenzione e di come concentrarla su ciò che ci interessa. Qui in studio è tornato a trovarci l'autore del metodo, il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana ed esperto di sviluppo e potenziamento delle abilità mentali. Buongiorno e bentornato, professore. Grazie e bentrovata. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professor Iannoccari, lei insomma non desiste, vuol dire che ce la possiamo fare, non si è spaventato da ieri, vero? Sono assolutamente convinto che ce la faremo alla grande. Allora professore, quali sono i segreti del suo metodo 5A e come funziona l'attenzione? Come posso non dirle i miei segreti davanti a questo sorriso, Nicoletta? Vede, ecco, sono un po' smemorata, ho poca attenzione, però almeno il sorriso. Grazie, lei è molto galante. Allora, il metodo 5A. Il metodo 5A è pensato per allenare e sviluppare. Quanto ci ha messo, scusi, ad elaborarlo? Guardi, è un lavoro che dura da, le posso assicurare, da alcuni anni. Da alcuni anni, che viene messo a punto attraverso la formazione, l'attività di stimolazione, e anche grazie alle migliaia di persone che incontriamo con Assomensana, alle quali proponiamo delle attività di stimolazione, vediamo come funzionano e come si sviluppano. Quindi è tutto capacità misurato, sì, ecco, per raccontare un po' il dietro le quinte ai nostri ascoltatori. Non è che uno si sveglia un giorno e dice: sai cosa ti dico? Facciamo. No, ecco. Ci sono anche una mole di dati a supporto di questo quindi metodo. Cari amici smemoratelli come me, affidiamoci, siamo in buone mani. Mi scusi, l'ho interrotta. Quindi il metodo 5A allena la mente. Allena la mente. Le sue prestazioni. Esatto, attivando, diciamo, 5 macro aree mentali, che sono appunto l'attivazione, l'attenzione focalizzata di cui parliamo oggi, l'assetto mentale quando dobbiamo affrontare un compito veloce oppure che richiede concentrazione, l'alternanza tra i compiti quando dobbiamo essere veloci ed efficienti, e l'autosviluppo, cioè la modalità con la quale noi possiamo diventare trainer di noi stessi. In particolare, quindi, oggi ci focalizziamo sull'attenzione. Se non c'è l'attenzione, non c'è memoria, va tutto a gambe all'aria. L'attenzione è proprio così, Nicoletta. È la base, soltanto la creatività ne può fare a meno, tutto il resto necessita dell'attenzione, è un po' come una macchina, senza carburante non va da nessuna parte. Quindi una funzione la più importante. È la più importante ed è grazie all'attenzione che è possibile svolgere molti dei nostri impegni. poiché permette di orientare la nostra mente dove vogliamo noi. Uno studio condotto dagli psicologi di Harvard. Cioè, niente proprio di meno che. Sì, infatti, sì, cioè, si sono messi lì e cosa ci hanno raccontato? Matthew Kingsworth e Daniel Gilbert, che hanno pubblicato su Science uno studio molto interessante condotto su 2250 volontari, hanno creato un'app per il telefonino, per intenderci. Sì. Attraverso il quale in qualunque momento della giornata chiedevano ai volontari che cosa stessero pensando e se quello che pensavano era coerente col compito che stava svolgendo. Chissà cosa ne è venuto fuori. Nicoletta. Nel 46,9% dei casi le persone pensavano a cose diverse da ciò che stavano facendo. Chissà che cosa staranno pensando i nostri ascoltatori. Se volete scrivercelo, la nostra pagina Facebook è sempre a vostra disposizione. Eh sì, beh, è quello. Ogni tanto bisognerebbe mettere una sveglia, sì, allora nel nostro cellulare, e che ci ricorda se stiamo pensando, cioè, a quello che stiamo facendo o stiamo pensando ad altro. Già questo potrebbe essere, vede, un esercizio. Sì. Vede che il suo metodo già attiva, il neuroncino sta funzionando benissimo. Sbatte un po' lì da una parete all'altra, però insomma un po' di movimento lo fa. Bene, se fate una sveglia per favore chiamatela Nicoletta. Va bene. Perché Nico. Bene. E quindi hanno rilevato questo vagabondaggio mentale. Sì, questa sorta di mind wandering, come lo chiamano gli americani, no? Che portava i partecipanti a pensare proprio a tutt'altro rispetto a ciò che stavano facendo. Beh, a volte a guardare bene la persona che abbiamo davanti capiamo dal suo sguardo se è altrove o se è con noi, perché basterebbe uno sguardo per capire. E quindi questo vagabondaggio, come lo chiamano gli americani? Mind wandering. Mamma mia, può capitare più volte durante la giornata, quindi proviamo ad attivare questa sveglia. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Il nostro cervello così vaga, rincorre pensieri stupendi, una canzone questa magnifica, me la sentirei tutta e infatti adesso mi sto, come si dice, non sto facendo attenzione, infatti mi sto impaperando, è il mio cervello che sta andando per conto suo, il pilota automatico si è attivato e vaga. Sì, vero? Beh, si sta facendo cullare. È la prova. La prova. Beh, in questo caso viene cullata da una bellissima canzone. Per cui è l'emozione che ha la meglio. Però questo pilota automatico, professor Giannoccari, di cui ci ha parlato anche ieri, che l'abbiamo anche localizzato, mi sembra, no? È dietro la fronte, sul lobo frontale, è proprio lì in prima fila. Insomma, è rappresentato da una rete di neuroni. Sì, è questa rete di neuroni chiamato network di default. Beh, tutto questo per dire che è un sistema che prende il controllo quando non siamo concentrati a fare qualcosa. È un sistema forse anche un po' di protezione. Sì, che ci fa risparmiare soprattutto. Ci fa risparmiare l'attenzione di cui parlavamo prima. Certo. È quel sistema che ci consente di camminare per le vie della città, restare seduti su una panchina nel parco, trascorrere un'intera giornata sdraiati sulla spiaggia senza pensare apparentemente a nulla, con la mente che va. Sì. che studio a Radio 24 in via Monterosa a Milano, basta, chiudiamo gli occhi, siamo lì, è così, no, professor Iannocchi? Sì. Beh, rischiamo anche noi di essere rapiti dal network di default. Beh, questo pilota automatico è molto utile proprio per risparmiare quello che dicevamo prima, l'attenzione, e non sprecarla. Come perché già è poca. Infatti, come ci riferisce Miali, questo è un nome difficile, Sixen Miali, è uno psicologo della Graduate University del Claremont in California, che si occupa di attenzione da sempre. Ha calcolato che il cervello riesce ad elaborare soltanto 110 bit al secondo. Per intenderci, questa nostra conversazione ne assorbe circa 60-70, il che significa che la quantità è poca. E l'attenzione dura tra i 20 e i 50 minuti, quindi è una facoltà che noi abbiamo, che è preziosa e non va sprecata. Il network di default serve proprio per evitare che questa energia venga dissipata. E però c'è un... Per questo noi ci alleniamo in 24 minuti nella prima parte di Cuore Denari, perché sennò l'attenzione va, è tutto calcolato. È tutto calcolato, ma il 24 minuti di attenzione, 24 minuti di lezione. Esatto, e in questi 24 siamo minuti siamo bravi, molto. Mm. In questi 24 minuti attiviamo il sistema esecutivo centrale, cioè sarebbe il primo pilota, il primo ufficiale. Sì. Bene, che prende in mano il governo della nostra mente e la porta dove vuole, evitando che il pilota automatico faccia il suo mestiere. E questo è importante. Sì, perché se sbaglia. Se sbaglia, succedono poi le distrazioni di cui raccontava lei all'inizio della puntata. Distrazioni piccole, distrazioni più grandi, e gli errori, lo sappiamo, no? Delle disattenzioni a volte possono costare davvero caro, no? Beh, i risultati della ricerca condotta dall'Università di Pisa e dall'Università del Wisconsin, pubblicato anche sul Journal of Neuroscience, indicano che se questa funzione non è ben attivata, si è più inclini a commettere degli errori e ad andare incontro a disattenzioni. Però allora, professore, è possibile misurare, dare un voto al nostro regista, a questo sistema esecutivo centrale, per sapere se è in funzione oppure no? Ci aiuti un po' a capire come possiamo testarlo. Mi sta chiedendo di proporre un esercizio? Sì, vede che anche i suoi neuroni sono vivaci. Che cosa proponiamo? Cosa propone? Ne ho uno proprio adatto a noi. È una sequenza di logica. Di numeri, quindi, di nuovo. Ci sono anche lettere. Va bene, dai, allora ci sono delle lettere, dei numeri. Mi sento più ferrata. Perfetto, c'è una sequenza. Chiedo agli ascoltatori di individuare qual è la regola che governa la sequenza dei numeri e delle lettere e di trovare poi qual è l'elemento che continua la sequenza. Io non ho capito, ad esempio se io dicessi ho bisogno delle lezioni private, se io dicessi 1, 2, 3, 5, 8 e così via, la sequenza è la somma dei numeri precedenti che portano a quelli successivi, 1 più 2, 3, sì. Poi 3 più 2, 5, 5 più 3, 8 e così via. Okay? C'è una regola che governa la sequenza di numeri e lettere. Individuata la sequenza, chiediamo agli ascoltatori di dirci qual è l'elemento che continua. Mm-hmm. Mm? Sono pronta. La sequenza è la seguente. Mi fa sbirciare i risultati. Però. Certo. Ok, va bene, allora siamo d'accordo. Allora, la sequenza inizia per... A, B, 3, E, F, 11, M, O. Qual è l'elemento che continua la sequenza? Quindi lettere e numeri, sempre più difficile. A, B, 3, E di elefante, F di farfalla, sì. 11, M di maiale, O di ornitorinco. Allora mettiamoci subito alla prova e misuriamo, testiamo la salute e l'efficienza del nostro pilota. Sta facendo il suo lavoro, è in vacanza. Troverete naturalmente il risultato di questo esercizio, che mi sembra un po' più difficile rispetto a quello di ieri, professor Iannocchi. Saliamo di livello, ma è normale perché ormai siamo un pochino più allenati rispetto a ieri. Se abbiamo fatto gli esercizi. Esatto. Se vi siete persi la lezione potete andare ad ascoltarla in podcast. Professor Iannoccari, noi metteremo naturalmente la soluzione di questa sequenza, ma che cosa possiamo fare d'altro? In quanto tempo dobbiamo arrivare a una soluzione? In questo caso io direi non più di 45 secondi. Ah, non più di, non 40... più di 45 secondi. Ecco, chi ci mette di più? Chi ci mette di più? Come diciamo può che dal 45 a 60 serve lavorare un po' per recuperare. Oltre i 60 secondi, rimbocchiamoci le maniche, c'è un po' di lavoro da fare. Qual è la carenza che lei individua nelle persone, perché io sono tra loro, che non riuscirà in 45 secondi a svolgere questa rebus, questo esercizio, a trovare la sequenza? Ecco. Sì, in questo caso noi stiamo attivando le funzioni del ragionamento, soprattutto il ragionamento governato dalla logica. Sì, magari noi siamo più creativi, mettiamola così, non è che si può essere perfetti. Beh, direi che essere creativi è già una perfezione. Però professore, passiamo, noi vogliamo allenarci e quindi migliorarci sempre un po', per questo anche per oggi lei ha preparato gli esercizi, i compiti da fare nel pomeriggio. Allora, 5 esercizi per sviluppare e potenziare l'attenzione in modo che la nostra mente vada dove vogliamo noi ed eviti di distrarsi. Partiamo dal primo. Primo esercizio. Dedichiamoci alle attività che richiedono un periodo di attenzione prolungata, come puzzle, sudoku, scacchi, eccetera. Un periodo di attenzione prolungata. Professor Iannoccari, 5 minuti, 8, mezz'ora, quant'è? Allora, l'ideale sarebbe tra i 20 e i 40 minuti. Uno dei, diciamo, delle caratteristiche dei nostri tempi è la carenza di un periodo di attenzione prolungata. Lo vediamo benissimo nei bambini che faticano a star dietro alle lezioni, a stare in classe. Per cui è importantissimo poter sviluppare e potenziare la concentrazione in modo che quando ci serve è pronta lì a disposizione per noi. In fondo è un esercizio di resistenza questo. Esatto. Secondo esercizio. Prendete parole di 5-6 lettere e fate lo spelling al contrario. Ad esempio, radio diventa O-I-D-A-R. E così via, aumentando la difficoltà. Quando sarete allenati, provate a ripetere al contrario tutto l'alfabeto in meno di 10 secondi. Questo, oltre a allenare e potenziare la concentrazione, richiede anche di mantenere fisse nella mente, sulla nostra lavagna mentale, la parola che poi dobbiamo, diciamo, fare lo spelling all'incontrario, per cui serve una concentrazione doppia. Ancora più, sì, è più precisa. Terzo esercizio. Memorizzate e ripetete velocemente gli scioglilingua. Sono un ottimo modo per allenare la concentrazione, la memoria e la velocità di parola. Esatto. Scioglilingua che non conosciamo, quindi apprendiamolo di nuovi su non internet. Non 33 trentini. No, direi che su internet. Già quello. Sì. Sciogliamo la lingua. Sì, sì, sì. E poi richiede molta, molta capacità di concentrarci su ciò che dobbiamo dire in modo preciso. Non vale barare. Quarto esercizio. In coppia, fatevi leggere un brano o un articolo di giornale e contate un certo tipo di parole. Quanti sono, ad esempio, i nomi propri di cose o persone, oppure le parole che iniziano con la T, oppure la E, e così via. Potete fare questo esercizio anche ascoltando le trasmissioni di Radio 24. In questo modo noi evitiamo che la mente venga rapita da altri pensieri quando stiamo ascoltando qualcosa e dobbiamo rimanere aderenti al testo, per cui mettere le mani proprio dentro quello che stiamo ascoltando. Uncinati da Radio 24. Quinto esercizio. Monitorate le azioni che state facendo, ripetendo a voce sussurrata la sequenza. Ad esempio, sto chiudendo la porta a chiave con una, due, tre, quattro mandate e adesso metto le chiavi in tasca. Oppure, sto lasciando il cellulare sul tavolino in sala. Così eviteremo di non ricordare le azioni compiute. Questo aiuta anche a memorizzare, a non avere i vuoti dove avrò messo questo, sì, vero? Sì, sì, non avremo dubbi su dove abbiamo lasciato gli oggetti. Ecco, l'unica accortezza, ricordiamoci di informare i nostri vicini che stiamo facendo l'allenamento, perché altrimenti delle 5 A, se no ci portano via con una camicia con le maniche lunghe, sì, lunghe, che si lega dietro. Lei domani alle 11 che cosa fa? Vediamo. Io se domani, la sua memoria, domani alle 11 credo di avere un bellissimo invito molto gradito. Se ricordo bene sono qui con lei. Bravo, a domani alle 11. Che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua? Abbiamo salutato il professor Ian Noccari, ma adesso andiamo a dare il benvenuto alla prossima ospite che ci aiuterà a nutrire il nostro cervello con gusto. Costruiamo con lei la dieta intelligente, la dieta che fa bene al nostro cervello. Salutiamo la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione all'Università di Bologna e autrice di un libro, Nutrire il cervello, come proteggerlo con i suggerimenti della nutraceutica, un libro i cui proventi sono a favore del centro studi e ricerche sul coma della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, che vi ricordo è un centro finalizzato proprio al recupero dei pazienti in stato vegetativo. Professoressa Creglia, buongiorno, eccoci di nuovo pronti per una nuova pillola gustosa e salutare per il nostro cervello. Buongiorno a tutti voi. Professoressa Creglia, siamo in vacanza, abbiamo tante volte sentito dire mangia il pesce che diventi più intelligente perché c'è il fosforo. Forse non è completamente vero, ma sicuramente qualcosa nel pesce che aiuta il nostro cervello c'è e le ricerche lo dimostrano. Indubbiamente, mangia il pesce perché diventi più intelligente, è verissimo, ma non perché c'è il fosforo. Il fosforo è presente in qualunque tipo di alimento animale e vegetale. Il pesce contiene i famosi acidi grassi omega 3, di cui tutti gli ascoltatori avranno sicuramente sentito parlare almeno una volta nella vita, e numerose ricerche hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione inversa fra consumo di pesce e malattie neurodegenerative. Il pesce contiene altissimi livelli di questi acidi omega 3, di cui le sigle più conosciute anche dal pubblico sono EPA e DHA, perché si vendono anche sotto forma di integratore nelle nostre farmacie. La scoperta del ruolo neuroprotettivo di questi acidi presenti nel pesce è abbastanza recente. Ne è stata dimostrata un'azione in grado di contrastare i fenomeni di morte cellulare a livello delle cellule neuronali. Pensate che noi cominciamo a perdere neuroni dall'età di 20 anni. Quindi, e siccome questo decadimento è fisiologico, l'unica cosa che possiamo fare è cercare, con una corretta alimentazione e soprattutto con un corretto stile di vita, di cercare di rallentare questa ineluttabile morte neuronale. Ci aiutano gli omega 3, ma in che quantità, professoressa Creglia? Diamo delle indicazioni precise. Precisissime. Pensate che il cervello consuma tutti i giorni 5 mg solo di DHA, di uno di questi omega 3, e per nutrire in maniera adeguata il nostro cervello basta consumare due volte alla settimana una porzione di 100 grammi di pesce. Quale pesce? Soprattutto il pesce azzurro, le sardine, gli sgombri, gli alici, che sono quelli a minor costo ma assolutamente più ricchi di queste preziosissime sostanze bioattive. Professoressa Creglia, grazie, noi ci sentiamo domani per un nuovo suggerimento per i nostri ascoltatori per la dieta intelligente. Grazie, a domani, buona giornata. Perfetto, buona giornata a tutti. Cuore e denari. Seconda parte di questa settimana agostana dedicata all'allenamento di mente e corpo. Abbiamo lasciato il dottor Ian Noccari, vi fuma un po' la testa, va bene, adesso facciamo un break, salutiamo il dottor Franco Confalonieri con cui alleneremo muscoli e anche le nostre articolazioni. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, oggi ci rinfrescheremo anche. Dottor Confalonieri, ieri abbiamo iniziato la prima parte di queste 5 sedute di allenamento un po' speciali, originali, mi verrebbe da dire, perché coniugano un esercizio tradizionale, ieri era la camminata, oggi l'anticipato sarà il nuoto, per questo ci rinfrescheremo, con un pizzico di novità e dal sapore un po' vacanziero. Ma prima di dedicarci al nuoto, quindi di tuffarci in acqua, vogliamo riprendere i 3 consigli per una buona camminata che ci ha dato ieri a fine puntata? Certo, i 3 consigli erano innanzitutto di scegliere l'orario e la logistica, non è una bella parola, del nostro allenamento in modo che siano assolutamente comodi. È fondamentale che fare attività fare esercizio non ci rovini la vacanza, ma sia un elemento di benessere e non di stress. Quindi questo è il primo fondamentale consiglio. Il secondo, ricordiamoci di andare a camminare dopo aver mangiato, cioè evitiamo di fare esercizio fisico a stomaco vuoto. Chiaramente un pasto leggero o della pasta o del riso, però assolutamente non conditi. Una buona colazione per chi inizia esatto, la mattina. Esatto, la fetta biscottata, la frutta, la crostatina, tutte queste cose qua. Comunque andiamo a stomaco pieno, non pienissimo e non affaticati. Terzo consiglio, fermiamoci appena compare un dolore, soprattutto se è un dolore articolare. Il dolore muscolare può essere legato anche all'affaticamento. Mm. Il dolore articolare è il segnale che c'è un sovraccarico pericoloso e quindi ci dobbiamo fermare e rivalutare un po' quello che stavamo facendo. Il quarto consiglio sicuramente l'avete seguito se siete in nostra compagnia, e allora adesso ci facciamo un bel tuffo. Ecco, già sentirlo dottor Confalonieri uno già si rinfresca. Parliamo di nuoto. Tutti voi specialisti consigliate il nuoto come una sorta di panacea di tutti i mali, ma è davvero così? Beh, innanzitutto abbiamo sentito questo effetto sonoro meraviglioso, cioè parliamo di nuoto e quindi parliamo di acqua e forse resteremo nell'acqua ancora durante questa settimana. A bagnomaria. Io non insomma. Mi stancherò mai di dire che se l'esercizio fisico deve essere benessere, l'acqua di per sé è un piacere. L'acqua è un piacere e ricordiamoci, l'acqua è il gioco primordiale. Cioè è stato il primo dei nostri giochi, era il nostro gioco quando dovevamo ancora nascere e tutti noi hanno ancora dentro quel senso dell'acqua che hanno i bambini quando cercano la pozzanghera piuttosto che il bagno, piuttosto che il tuffo, piuttosto che il gioco con l'acqua. Quindi andiamo a consigliare l'attività in acqua proprio perché a noi interessa il benessere del nostro ascoltatore, lo dicevamo anche prima quando parlavamo di consigli in termini di orario, e entrare nell'acqua di per sé ci deve dare gioia. Benessere inteso non solamente come condizione di salute, assenza di malattia, ma proprio lo stare bene, perché il sentirsi bene. Esatto. I due concetti sono un po' diversi, perché possiamo stare bene ma non sentirci bene. Invece dobbiamo cercare di far combaciare queste due necessità che sono. Questa è una puntualizzazione molto giusta e direi che anche l'impostazione che abbiamo dato a questo percorso di questa settimana è proprio in questa linea. Cioè, vede che gli esercizi del dottor Iannò, cari e batti, alla fine qualche piccolo neurone si sta risvegliando. È molto pericoloso separare, come si è sempre fatto nella tradizione scientifica occidentale, il benessere della mente da quello del corpo. Sono troppo strettamente legati, ma proprio a livello biochimico. Cioè è impensabile che il nostro equilibrio di tipo neuroendocrino, il nostro equilibrio di tipo ormonale siano condizionati soltanto dal benessere psicologico, soltanto dal benessere fisico. Le due cose interagiscono e in questo senso l'acqua e quindi il nuoto ci garantiscono sia un tipo di benessere sia l'altro. Allora, un conto se lei però mi dice acqua, un conto se mi dice nuoto. Bravissima. Dottor Confalonieri, perché bravo. Anche qua vede, il dottor Iannò fa i miracoli, perché mentre con l'acqua possiamo avere un rapporto, quasi tutti abbiamo con l'acqua un rapporto di piacevolezza, di benessere, anche solamente con la nostra vasca da bagno sotto la doccia. Certo, no, è così. Con il nuoto è un'attività, non tutti ad esempio sanno nuotare, molti hanno paura dell'acqua. Infatti, sono due argomenti assolutamente diversi. Noi cercheremo anche in questo caso di farli in qualche modo combaciare, ma andiamo per... Infatti lei molto opportunamente prima si diceva i medici, i miei colleghi, tutti continuano a dire nuota che ti fa bene, vai a nuotare, nuoto come panacea di tutti i mali. Non è proprio così, perché purtroppo nuotare è molto difficile, cioè nuotare in modo corretto, nuotare in modo razionale, nuotare senza sovraccaricare in modo sbagliato determinate articolazioni o determinati gruppi muscolari senza andare in affanno. E purtroppo il nuoto fa bene se sappiamo nuotare bene. Se non sappiamo nuotare bene è assolutamente sconsigliato. E questo lo voglio dire forte, perché è un consiglio che vale per l'estate ma vale per tutto l'anno. Cosa cioè, vuol dire se non sappiamo nuotare bene? Se abbiamo problemi di galleggiamento o di stile? No, problemi di avanzamento razionale. Cioè, saper nuotare bene, dobbiamo essere in grado perlomeno di nuotare una vasca da 25 metri, il minimo, senza avvertire fatica, senza avvertire dolori, senza avvertire affanni, in condizioni di relax. Allora si può partire per impostare un programma. Come per il cammino, anche per il nuoto, se no dobbiamo proprio escludere queste attività. Ecco, la ringrazio dottor Confalonieri, perché questo è un semplice test che ciascuno di noi può fare. Sì. Ormai le piscine ci sono negli stabilimenti balneari, ci sono le piscine quelle nelle città, nei villaggi. Allora proviamo a fare una vasca 25 metri, diceva il dottor Confalonieri, e se arriviamo con la lingua penzoloni, speriamo di no perché se no beviamo, ma un po' rotti, affaticati, affannati, qualche cosa va un po' rimesso a posto, evidentemente. Significa che la nostra tecnica è inadeguata, perché se no anche una persona totalmente in sovrallenamento è in grado di nuotare una vasca senza fatica. Se siamo affaticati, in ansia, in affanno, vuol dire che la nostra tecnica è inadeguata. E allora dobbiamo scegliere un'altra attività fra le tante che andremo a proporre questa settimana. Allora, partendo da queste sue considerazioni, per chi invece supera la prova della vasca, perché su questa sì, che ci dobbiamo sì. misurare, perché poi nuotare al lago, nuotare al mare sono, no, altre, ci sono delle differenze, perché dimmi dove ti tuffi e ti dirò che cosa fare, che cosa devi sentire. Quali sono le indicazioni che vogliamo dare, sempre seguendo un po' l'ottica di queste nostre allenamenti, e cioè rendere, fare delle cose a cui, che siamo abituati a fare, ma con un pizzico di originalità un po' diverse dal solito? Beh, innanzitutto è diverso ovviamente il nuoto in piscina, il nuoto al mare o il nuoto al lago. È diverso il nuoto in piscina, da un lato è più semplice perché non abbiamo la difficoltà dell'orientamento, che è una delle grandi difficoltà che ci sono quando nuotiamo al mare o al lago, e non abbiamo le correnti, sì. non abbiamo le variazioni di temperatura che complicano enormemente la situazione in mare e relativamente la situazione al lago. Quindi per un nuotatore non evoluto abbiamo solo i vicini di corsia. Sì, però insomma per un nuotatore non evoluto, voglio dire, allora facciamo siamo al mare, facciamo il bagno al mare per divertirci e poi andiamo in piscina se vogliamo allenarci. Il mare dà il vantaggio del galleggiamento maggiore rispetto alla piscina, perché il sale ovviamente aumenta la densità dell'acqua e quindi aumenta il nostro galleggiamento, e questo può essere un vantaggio per il nuotatore non tanto evoluto e sottopeso molto muscolato, perché è chiaro che il nostro galleggiamento varia in funzione del nostro peso e della nostra composizione corporea. Poi torneremo su questo tema. Quindi è molto più facile nuotare per una persona in sovrappeso che non per una persona molto definita, molto muscolata, molto magra, che ha un galleggiamento minore e fa più fatica. La rivincita del morbido. Esatto, è per quello che amo tanto nuoto. Non per nulla. E ecco, allora la persona molto magra, la persona palestrata, la persona allenata, che magari proprio perché si è allenato tanto ha qualche problemino articolare, ha bisogno di mantenere l'allenamento senza sovraccaricare le articolazioni, allora invece deve scegliere il mare, o meglio ancora la piscina in acqua salata, che ormai c'è in tantissimi stabilimenti, perché lì ha un galleggiamento molto maggiore, quindi questo problema della densità corporea e del ridotto galleggiamento si riduce in modo significativo. Allora ci alleniamo in piscina, in che modo possiamo rendere, perché il nuoto in piscina è noiosissimo, vasca dietro vasca, a lei piace, ma dottor Confalonieri è un po' il lato, no, un po' negativo di questa forma di questa attività sportiva, dottor Confalonieri. Sì. Ci si allena facendo una vasca dietro l'altra. Beh, per renderla meno monotona, ma per farla rendere ugualmente, che cosa si fa? Beh, innanzitutto dobbiamo chiarire l'obiettivo con cui scegliamo questo tipo di attività, perché è molto importante. Noi possiamo nuotare perché vogliamo ritonificarci dal punto di vista muscolare. Sì. In scarico dal punto di vista articolare, quindi un'attività quasi fisioterapica o post riabilitativa, sì. ed allora ha un significato, oppure vogliamo nuotare per migliorare la nostra efficienza cardiovascolare oppure per dimagrire, e allora è proprio il nuoto come allenamento. L'approccio è molto diverso, ed anche le strategie che possiamo scegliere per renderlo più divertente sono indubbiamente diverse. Allora iniziamo dal nuoto come attività che restituisce flessibilità, armonia, equilibrio alle articolazioni, ai nostri muscoli che sono stati un po' troppo, no, sovraeccitati durante magari gli allenamenti durante l'inverno. Penso al nuotatore molto muscoloso, palestrato, certo. che vuole comunque dare un po' di sollievo alla schiena. Ecco, allora qui un approccio originale potrebbe proprio essere quello di interpretare il nostro tempo nell'acqua, in questo caso il nostro tempo in piscina o in mare, come un tempo nel quale c'è uno spazio per il galleggiamento, proprio il galleggiamento, che di per sé diventa rilassante, diventa allenante, diventa una sorta di stretching o di pilates naturale per il nostro organismo, indipendentemente dall'avanzamento. Uno spazio per il cammino, non è proprio il nuoto, ma è lo spostamento nell'acqua, che comunque diversifica rispetto al nuoto, anche perché mi guardo intorno, e poi uno spazio per il nuoto. E quindi strutturo proprio il mio allenamento attraverso l'alternanza di questi tre momenti. Perfetto, che sarebbe un po' lo stretching all'inizio. Sì, bravissima. Quando noi ci adagiamo, galleggiamo, esatto. E già durante il galleggiamento non ce ne rendiamo conto, ma mettiamo in attiviamo atto tutta la muscolatura posturale, facciamo una sorta di pilates naturale. Non è faticoso, assolutamente. Possiamo un 5 minuti di galleggiamento, sì. Morbido. Poi il cammino. Quindi una situazione che dal punto di vista dell'intelligenza motoria è facile da gestire, perché camminiamo abitualmente, ma è diversa perché siamo nell'ambiente acqua. E infine il nuoto. Questo per la prima categoria. Poi c'è la seconda. Adesso però intanto belli, tranquilli, rilassati, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme col dottor Confalonieri. Cuore e denari. Io nuoto a farfalla e tu fai la rana, e quella befana. Farfalla, rana, stile libero. Ci stiamo allenando in acqua insieme al dottor Franco Confalonieri. Dottor Confalonieri, c'è uno stile più allenante di altri? Oppure come scegliere lo stile per allenarci e quindi dare equilibrio? Perché la nostra parola è equilibrio e aggiungerei anche armonia. Direi che questo inserto musicale capita proprio a proposito, perché ma chissà come mai, che combinazione, ci siamo lasciati prima della pausa parlando di coloro che vanno in acqua soprattutto per obiettivi di tipo neuromuscolare, osteoarticolare, soggetti magri, soggetti molto muscolati, soggetti che devono recuperare, e dovevamo ancora un po' parlare di coloro che invece vanno in acqua per allenarsi, no? E per allenarsi l'alternanza dei diversi stili è sicuramente uno strumento efficace. Indubbiamente lo stile libero è il modo più razionale di avanzare nell'acqua, cioè il modo che ci consente di avanzare velocemente con un dispendio energetico ridotto. Per chi lo sa fare bene, ovviamente, questa è la premessa. Certo. La rana è probabilmente uno dei metodi più semplici per chi ha questo tipo di nuotata naturale, proprio perché non c'è la complicazione della respirazione. La complicazione della respirazione non l'abbiamo neanche a dorso, però spesso il dorso è complesso perché non sappiamo bene dove andiamo a finire. Il delfino lo riserverei proprio ai top in questo caso. E anche farfalla. Sì, farfalla, e il delfino con le gambe rane ancora peggio. Questo lo riserverei proprio ai top o a Rino Gaetano ai tempi. Ecco, per allenarci è chiaro che dobbiamo proprio... Comunque la rana non è uno stile da befana, eh? No, tutt'altro, no, tutt'altro. Perché lei, ma... anzi tradizionalmente, sai che ho frequentato per anni il mondo del nuoto, le raniste sono da sempre le nuotatrici più belle, più carine, per infatti, definizione. Per questo con Valeria quindi facciamo spesso rana, no? Sono in assoluto le più belle, le più simpatiche, ecco, le raniste. Stiamo proprio pochi secondi sullo stile, ci sono degli errori che il nuotatore, pur capace, fa senza rendersene conto, che possono in qualche modo vanificare un po' l'allenamento. Lei infatti ha sottolineato lo stile libero è il, no, lo mettiamo al primo posto, basta saperlo fare bene. Quali sono gli errori da tenere un po' sotto controllo, così come per rana? Dorso l'abbiamo messo un po' da parte perché sicuramente aiuta nella respirazione, ma è un attimo andare storto. Ma no? Insomma, gli errori fondamentali sono quelli di un utilizzo non armonico delle gambe e delle braccia. Quindi le gambe nel nuoto, esclusa la rana, non hanno un effetto importante dal punto di vista propulsivo. Quindi tutto sommato è importante che sia armonico il lavoro delle gambe con quello delle braccia, se no tanto vale, soprattutto a stile libero, che le gambe non le usiamo, perché spesso consumiamo molta energia ma non ci serve per avanzare. Poi l'altro errore grave che si può fare è non respirare effettivamente quando si nuota, cioè si fa la respirazione ma di fatto non si respira, cioè non si inspira quando la testa esce non si espira quando la testa è sotto, per cui si concentrano i due atti quando la testa è fuori, dopo un po' si è costretti a fermarsi perché si va in affanno. Io vedo molte persone che nuotano ma non sono in superficie, cioè, ma tendono ad avere una posizione un po' come obliqua. Beh, quasi in piedi, se le gambe tendono a sedere, è chiaro, la gamba è la parte più pesante, nel tronco abbiamo l'aria, quindi tende a galleggiare, la gamba tende ad andare sotto. E quindi è quello che si diceva prima, cioè una persona non dovrebbe nuotare se non ha un galleggiamento naturale valido. Questo è il primo punto, cioè allora scegliamo un'altra attività. Andate a sentire la puntata di ieri sul cammino. Esatto, perché se siamo in difficoltà è meglio che non si nuoti, tutto sommato. E dal punto di vista dell'allenamento, anche qui vale un po' quello che si è detto ieri rispetto al cammino, che si dice spesso, cioè è molto molto importante fare un lavoro continuativo mantenendo una tecnica corretta. Parlavamo prima di tecnica, quindi se le pause erano importanti per chi camminava, diventano fondamentali per chi nuota. Io il consiglio che do sempre a chi nuota è: molto meglio nuotare 8 volte una vasca con 10 secondi di pausa piuttosto che nuotare in modo del tutto sgraziato 3, 4, 8 vasche consecutive, che ci crea molti problemi sul piano ortopedico e non ci consente di controllare il gesto dal punto di vista motorio. Non credo che il nuoto faccia dimagrire. Non ho mai visto un ippopotamo magro. Heinz Schenke. Questa è per lei, dottor Confalonieri, e per gli ippopotamini. Questa è carina, è un po' come quando io combattevo lo stretching, che dicevo non ho mai visto una gazzella fare stretching prima di cominciare a correre. Insomma, siamo sullo stesso piano, no? Sono delle provocazioni intelligenti. E l'ippopotamo non è magro, ma l'ippopotamo sta nell'acqua, non nuota. Io non ho mai visto un ippopotamo muoversi, è un po' diverso. Anzi, il nuoto è uno strumento straordinario per chi deve dimagrire, e l'attività in acqua in genere, quindi anche il nuoto, è uno strumento eccezionale per le persone in sovrappeso o obese che devono perdere peso. Per due motivi fondamentali. Il primo, che il consumo calorico, se uno nuota bene, nuotando, è assolutamente elevato. Quindi se io faccio 20 minuti di nuoto, 20 minuti di corso, 20 minuti di bicicletta, il nuoto si pone tra la corsa e la bici, quindi un consumo calorico superiore a quello del ciclismo e leggermente inferiore a quello della corsa. Però voglio dire, un soggetto però nuotare 20 minuti non è no, per un soggetto in sovrappeso è molto più facile nuotare 20 minuti che correre 20 minuti. Ah, beh, certo. È impensabile correre, dovrebbe camminare, e il consumo calorico nel nuoto è molto superiore a quello del cammino. È inferiore a quella della corsa, ma superiore a quella del cammino. Questo vuol dire che di puntata in puntata lei ci porterà degli allenamenti sempre più difficili? Brava, esatto. E sempre il dottor Iannocchi. E sempre più allenanti. Quindi nuoto assolutamente efficace in termini di perdita di calorie. E oltretutto, ripeto, non essendoci il sovraccarico, è un'attività, così come l'attività di ginnastica in acqua, su cui magari ritorneremo, che è assolutamente consigliabile per chi è in sovrappeso. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente dell'idea che il nuoto fa dimagrire. L'ippopotamo non dimagrisce perché sta fermo, perché non sente Cuore Denari Estate col dottor Confalonieri. Oppure fa una scelta di vita diversa, assolutamente rispettabile. Allora, ci saranno però anche delle controindicazioni o delle categorie di persone per cui il nuoto è sconsigliato. Ci faccia qualche esempio. Ma fondamentalmente il nuoto è sconsigliato a tutti quelli che non sanno nuotare, come abbiamo detto prima, ma non mi stancherò mai di dirlo, perché diventano di fatto a rischio per il loro sistema muscolare, cardio e articolare. E poi è sconsigliato alle persone che abbiano gravi patologie di tipo cardiovascolare, perché l'immersione del corpo nell'acqua è comunque uno stress dal punto di vista cardiovascolare, c'è una ridistribuzione del sangue in tutto l'organismo, e quindi l'ingresso nell'acqua e l'uscita dell'acqua possono diventare eventi traumatici. Dottor Confalonieri, vogliamo parlare di nuoto, vogliamo parlare di acquaticità, e naturalmente il pensiero va ai bambini. Per loro veramente il mare, la piscina, sotto l'occhio vigile e attento, soprattutto se sono molto piccoli, dei genitori, dei nonni e degli zii, diventa veramente una bella palestra. Quando iniziare e che cosa, quali raccomandazioni da fare ai genitori all'ascolto per bambini? E stiamo parlando di bambini intorno ai 3-4 anni, quindi che muovono i primi passi nell'acqua. Beh, la fortuna è che adesso moltissimi di questi bambini hanno una certa educazione all'acqua, perché sono stati portati in piscina d'inverno o quant'altro. Il mio consiglio è lasciate i bambini stare nell'acqua. Il bambino naturalmente se lo porti al mare e se deve seguire il suo istinto sta ininterrottamente nell'acqua, e io voglio dire assecondate il suo istinto. Sì. Il bambino ha bisogno dell'acqua, il bambino sviluppa in modo straordinario la sua intelligenza motoria stando nell'acqua, perché ha degli stimoli tutti diversi da quelli che ha nell'aria. Il bambino trova nell'acqua, come si diceva all'inizio, il suo gioco primordiale. Quindi arrivate al mare, lasciatelo andare nell'acqua dando un'occhiata e lasciatelo dentro tutta la giornata, non c'è nessun problema. Scordatevi anche la regola delle 2 ore, la regola delle 3 ore. Fate mangiare in modo light i vostri bambini e non c'è nessun problema se il bambino mangia nell'acqua, se entra nell'acqua 5 minuti dopo aver mangiato. Evitate di fargli mangiare magari il cibo ad alto, a lenta digestione, perché può creare qualche problema. Ma in linea di massima è molto più dannoso per un bambino stare 2 ore a aspettare di entrare in acqua stressato perché vorrebbe entrare che non digerire mentre sta nell'acqua. Questo per il problema cibo, quindi sì, la merenda, sì. Aspetta un'ora, aspetta 2 ore, il bambino al pranzo. Dottor Confalonieri, diamo anche delle regole, delle raccomandazioni di sicurezza. Ma la raccomandazione di sicurezza numero uno è: non lasciamo mai il bambino nell'acqua da solo. Mai. Cioè, o siamo noi o il bambino è veramente sul bagnasciuga, che va già benissimo, o se il bambino si allontana anche pochissimo dal bagnasciuga bisogna essere in acqua con lui. La regola del compagno d'acqua è fondamentale anche per l'adulto, ecco, è importante dirlo, cioè non andiamo mai nell'acqua da soli, si va sempre nell'acqua, anche se siamo nuotatori esperti, anche se siamo bravi, con un compagno d'acqua. E poi ricordiamoci di non nuotare, no? Cercando nuotiamo di sempre raggiungere... parallelamente, ecco, alla costa e non allontanandoci dalla costa. Quindi qualcuno che li guardi o qualcuno che si inacqua con loro sempre. Da questo punto di vista, se possiamo evitare braccioli, tubi o altri supporti, meglio, perché il bambino raggiungerà naturalmente la confidenza e il galleggiamento con l'acqua dove tocca, con noi che lo osserviamo, e poi man mano arriverà da solo anche a stare dove non tocca. Quindi il suo consiglio è di non passare dai braccioli. Beh, ma di, se è possibile, è necessario passare, però lasciare quei braccioli meno tempo possibile, stare il più possibile vicino a loro dove toccano, in modo che imparino a usare il loro corpo in modo intelligente senza supporti. Allora, dottor Confalonieri, 3 indicazioni anche oggi di base per il nostro allenamento. Regola numero uno, se non nuotiamo in piscina, attenzione, perché l'acqua può essere rischiosa e può essere pericolosa, quindi grande attenzione alla temperatura dell'acqua, perché è un elemento importante, e quindi l'acqua dai 24 gradi in giù può essere pericolosa. E attenzione anche se nuotiamo al mare o al lago a quelle che sono correnti, risucchi o quant'altro. Regola numero due, qualsiasi allenamento in piscina o al mare facciamolo con pause molto frequenti. La pausa ci consente di controllare la tecnica, quindi una vasca, pausa e poi si riparte, pausa, possiamo controllare la tecnica ed evitare quella che era la controindicazione fondamentale del nuoto, cioè la difficoltà del gesto. La regola numero 3 ci dice invece che se siamo dei buoni nuotatori è estremamente efficace alternare diversi stili. Torniamo a qualcosa che abbiamo detto, perché i diversi stili significano utilizzo diverso dei gruppi muscolari e delle articolazioni, quindi un allenamento più completo ed efficace. Ok, tutto registrato, dottor Confalonieri, io l'aspetto domani. E io penso di esserci, adesso vado a farmi una nuotata. Anche noi vi aspettiamo domani, sempre alle 11, con i consigli del dottor Iannoccari per la mente e del dottor Franco Confalonieri per i nostri muscoli. A domani alle 11, buona giornata.